L'importante è fare il primo passo, cominciare. Le cose prima o poi cambiano. Sì, cambieranno. Voglio che questa sia la settimana delle novità, dei progressi. E stasera andrò anche all'Associazione delle Vittime. La riunione alle 9. Finalmente ci vado, mi hanno anche chiamata. Sì, ci vado. Mi faranno domande. Qualcuno mi chiederà di parlare, non so un cazzo. No, ma come non so un cazzo? C'ero. Perché mi piglia così? Non ci sei mai andata, anni che ti invitano. Le riunioni, le associazioni, 17 commemorazioni. Non c'è da sapere nulla. Non c'è da rispondere a nulla, tranquilla. C'eri e basta, ascolti. Sei una vittima, se c'è da rispondere rispondi, basta. Che hai visto, che hai sentito, che provi. Poi ognuno ci sta come ci vuole stare, no? Giusto. Lei chi è? Sono Giulia. No, guardi, queste sono occupate. Lei si mette là a fondo, laggiù, ecco. Ma dai, figurati. Ma quelli sono tutti gentili. Però mi piglia uguale. Le 8. Già vestita, già pronta, già cenata, non c'è da far niente. Il telegiornale. No, stai ferma, seduta. È buio. Accendi la luce. Gli dici che è tanto che non vai perché ci casco tutte le sere. Ecco, brava, distraiti. Ma guarda te se non sembra una cosa. L'effetto. Io devo andare di là e chiedere ai nuovi inquilini. Magari basta spostare una tenda, muovere, levare uno specchio, non lo so. Dirglielo apertamente in maniera gentile. C'è un'ombra. Sì, nel senso, una sagoma. Scusatemi tanto, io abito qui in via dei Giorgofili. Appunto, proprio di fianco a voi. Sì, ci siamo rincontrate dal giornalaio con la signora ogni tanto. Una sagoma sopra il tetto tutte le sere. Sì, quando il sole comincia a sparire, che si riflette. Ma non lo so, io la vedo dalla finestra della mia camera, sul tetto di fronte. E allora io mi domandavo, dove la vede la sagoma, scusi? Sul tetto di casa. Una donna con i capelli lunghi, biondi, magra, sta ferma. Ah! Essere presi per matti. Ma che ne sanno loro, porini? Chissà se quelli che gli hanno affittato la casa si sono presi la briga di spiegare che qui nel 93 è successo quello che è successo. E può capitare che a qualcuno tra i vecchi inquilini dell'epoca qualche idea strana. Ogni tanto lo shock per la bomba. Capita, no? Che magari all'ora di cena si presenta quella che abita al numero per chiedere. Io la vedo, c'è. Non credo ai fantasmi che sono cazzate, ma c'è una donna bionda. O sarò io che sono peggiorata? C'ho gli effetti ottici. Prima capitava. Ma guarda, sembra l'effetto buffo, no? È che da normale tu razionalizzi. Via, cazzate. Ora è. Anche se non è, se ci ragioni. Che ci fa una donna appena scende il buio sul tetto di fronte, seduta e mi guarda alle mie finestre? No, non è possibile. È. Io sono peggiorata tanto. Mamma mia, come sono peggiorata. Quando invece mi sembrava di migliorare, peggiorata. Più il tempo passa e le cose traumatiche che hai vissuto cambiano, si modificano, assumono con il passare del tempo la loro giusta proporzione. Una sega. Ecco, È andata malissimo con gli psicologi. Io ci avevo meno paura l'anno dopo. 6 mesi dopo di ora. 17 anni. Io sono peggiorata. E allora è l'occasione. Vedi, sì. Ma di che? L'associazione. Parlare, tentare, dirlo. Dirlo? Siamo 2 nel cervello. Io e una scema. Una che cerca di ragionare e l'altra che trema, piange, vede le donne sui tetti. No, no, no, no, no, non ci casco. Si tengono chiuse a catena le bischerate, si ascolta, si fa lo sforzo. Gli altri quelli che hanno... Gli altri. Io ora vado all'associazione delle vittime a... No, no, no, no. A dire i miei problemi personali che vedo la sagoma. Ma guarda, fai meglio a stare a casa, gli dici sei malata, fai meglio. Io devo comprarmi una macchina fotografica. Ma sono matta, ma guarda, Dio Cristo, la vedi? Chi è lei? Scusi? Scusi, chiamo le guardie, scusi! Io dovrei trovare una persona di fiducia. Mi ci guardi te? C'è una donna sul tetto, è reale! E dagli con le cazzate. Preparati! Perché non ti prepari? E poi subisci le cose, i fatti. Dai, preparati! Preparati un discorsino. Piglio la pasticca. No. Dai, come si era studiato il discorso, riprovalo. Signor Ricoveri, signora Maggianichelli, amici dell'associazione. Io è la prima volta che partecipo per negligenza mia. Sento che davanti a molti di voi che hanno avuto legata all'episodio della bomba del 27 maggio del 93, tragedie e dolori più grandi della mia, un profondo rispetto, un senso... un senso... Vabbè, a ogni modo io mi sento di poter dire che anch'io nel mio piccolo no, no, no, no, no, no. Anche se non ho subito quello che avete subito voi, io sto non benissimo. Ecco, ancora da allora. E avrei tutta una serie di cose stupide che mi succedono, ma che a parte quello, a me non sembra di migliorare, di dimenticare. Come mi aspettavo e mi avevano detto, ma anzi perché? Perché questo io vorrei domandarvi, grazie e scusate. Bene, grazie. Abbiamo capito, ci ha fatto piacere la domanda. Può accomodarsi a sedere. E via. Finito l'intervento. Sei rimasta male? E che ti pensavi? Arrivi te, in 17 anni t'hanno vista 2 volte. Invece hai appena poggiato il culo sulla seggiola e si alza uno dal fondo. Ma perché lei, signorina... Ma che pensava fosse facile dimenticare? Ti tocca rispondergli. No, no, dimenticare no. Ma almeno sistemarlo da qualche parte. Io ci ho sperato invece... Dimenticare. Ho usato la parola sbagliata. Le parole sono la bomba, le case distrutte, i feriti, i morti. Non sono cose che si possono... né che si devono dimenticare, ma com'è possibile che mi sia venuta alla bocca dimenticare? Quello che volevo dire è che sì, quelli sono in galera, il processo, le condanne definitive, sì è vero, ma i problemi con il 41 bis, le torte e tutto il resto non aiutano, ma insomma, passa il tempo e... Io sto peggio di prima ora, di quando nemmeno li avevano presi i colpevoli. E non è per loro, è per me. Perché c'è qualcosa che deve essere successo nella mia testa, che è venuto fuori, che è cresciuto dopo. Mi sono spiegata. Io per questo stasera, io non pensavo nemmeno di venire, invece approfitto, parlo. Se c'è qualcuno che me lo sa dire. Brava. Così gli passi la palla e hai fatto la tua figura. Magari ti fa anche bene sfogarti. Hai visto? E che ci vuole? Fai così, sincera. Fai benissimo, hai il diritto. Sei una vittima. Dici. Non t'hanno buttato giù la casa anche a te? Sì. Ci potrebbe essere uno meno educato degli altri che si alza in piedi e dice: signora, io finora l'ho ascoltata e sono stato zitto, ma una cosa sono i fatti e noi siamo qui per questo, i fatti. Si parlava del 41 bis, appunto, i fatti seri. La giustizia c'è stata? Fino in fondo. E i mandanti? I fatti, appunto. E una cosa sono i problemi che uno ha di suo, di personale. Mi scusi se glielo dico. Nella sala si sente un mormorio sicuro. Nel senso, signora, mi scusi, A parte io capisco che lei stia male, ma che dovrebbero dire gli altri? E poi mi scusi, ma non è che confonde i problemi suoi con la storia della bomba? Perché c'è anche questo aspetto che bisogna saper distinguere ed è importante distinguere. Beccata! Applauso! Se succede, che gli rispondi? Io non ci vado, faccio prima. No, se succede che gli rispondi, avanti. Detto che questo, guarda, dovrebbe essere un imbecille. E lì imbecilli che io ricordi non ce n'è. Ma se per caso dovesse succedere, io mi alzo e gli tiro un ceffone davanti a tutti quelli dell'associazione, chiuso il discorso. Il dolore si deve misurare con il bilancino. Te hai avuto 1 chilo di dolore al giorno? Te? Vabbè, 1,5 al mese. Ma se uno fosse di Poggi Bonzi, no? E mettiamo che via dei Giorgofili non sa nemmeno dov'è, però ci voleste star male lo stesso, che? Non si può? È vietato? Ci mancherebbe. Rifà sempre quello in fondo alla sala. Tutti siamo stati colpiti. L'Italia civile. Lei però non ci deve mettere del suo. Noi abbiamo il dovere di distinguere il suo, come il mio, dal nostro. Io stasera non ci vado. Ma no, non sono portata ai discorsi. Sto a casa. Ma non è che uno se lo cerca il dolore, che c'ha la passione. Io, anzi, io non ero così, non sono mai stata. Questa passione proprio, la passione per il cinema, per i libri, per la danza, per gli uomini. Io per il dolore no. Anche se non ho mai partecipato, sì, per pigrizia. No, no. No, è qualcosa di diverso dalla pigrizia. Pudore. Ma che c'entra? Forse più rispetto, ecco. Sì, anche. Ma è quando non ti senti, no? Come a inadeguatezza. Ecco, sì. È una parola. Ma non lo so da dove mi viene. Stai in un posto e dopo 5 minuti dici: ma che ci fo? Ma non è questo il mio posto, torniamo di là, via. Poi quando sei di là 5 minuti: ma che ci fo? Ma io dovevo stare dov'ero, ritorni. E dopo 2 minuti rivia un'altra volta. Sicché è tutto un avanti e indietro nei posti. Inadeguatezza. Gli devi dire che sei una dei pochi rimasti a via dei Giorgofili, di quelli di allora. Tu sei una delle poche, il coraggio che hai avuto te, giusto? Allora quello dello schiaffo si rialza. E mi scusi? Gli altri non ce l'hanno fatta a ritornare. E lei invece ha aspettato che mettessero a posto la casa e dentro subito, Si vede che è tanto patire. No, via. Ma quella è gente seria. Ma quella è gente intelligente, non son pazzi come me. Io parlo da sola, mi do le risposte. Quella è gente che al limite mi può dire Giulia, lei non deve spiegarci niente. Lei ha tutto il diritto di stare tra noi. Siamo tutti vittime. Con questo chiuso il discorso. La smetta di giustificarsi e vada avanti, prego. Giustificarsi. Ecco, vedi, ha detto bene quello, in maniera educata. Non ti giustificare. Sono crollate le pareti, il pavimento, il soffitto. Hai diritto, meno, no, uguale. Uguale agli altri. Uguale. Basta, non è mica possibile. Mi sento in colpa verso di voi. Ecco, tanto vale dirlo. Io mi alzo e lo dico a tutti. Mi sento in colpa. Per tante cose, ma anche per questo fatto della casa. Era anche per questo che, insomma, le riunioni... Vabbè, non ha importanza. Come ho fatto a farcela? A ritornare? Sono più forte? No, no, anzi. Ma come ho fatto a dire... Io voglio ritornare dove era la mia casa. La bomba l'ha buttata giù, voi intanto ricostruitemela che io torno e voglio tornare lì perché mi garba lì. Sono più forte io, no? No. Questo è impossibile perché io non ho avuto nulla in confronto agli altri e sto come un cane, figurati. Sono una povera bischera. Un ebete senza pensarci. È casa mia. Ci torno. No, non credo. Ci ho pensato, Anche se dubbi, devo dire che non ne ho avuti. Allora lo vedi? Potrebbe aver ragione quello dell'ultima fila. Tu sei una leggera nel dolore. Io torno. Ma sì, mi importa assai della bomba, di tutto. Io torno. La sera a cena davanti alla televisione, guarda... Io sto proprio bene a Cassina. La bomba? Ma la bomba pace, è andata. Dispiace. Ma è un ricordo bruttissimo. Si dimenticherà. Si è mossa. La sagoma, hai visto? Si è mossa, ha fatto così con la testa, una mossetta. Eppure un giorno con un faro, guarda, come quello dei pompieri, io ti illumino e si va fino in fondo. 42, 45... I capelli alla tiravia, biondi, ma trasandata. S'è mossa la mossetta con il capo. Che ci vai a fare tutte le sere sul tetto a quest'ora, il fresco? Con il rischio di venire di sotto. Tanto se ne avute poche noi qui di tragedie. Ci vuole coraggio. Lei forse è straniera, non lo sa, ma ti sdrucciola un coppo di sotto ai piedi. L'ha visto lei il buco di sotto? Te scivoli. Nel salto fai un bercio. Televisioni accese, finestre ancora chiuse, serata coperta, frischino. Sai quando ti vengono a ripigliare spaccata in due nella chiostra? Ho sbagliato i calcoli. La più grande cazzata della mia vita. Io ho pensato, ritorno, casa mia, e tutto ridiventa normale. Normale dopo quello che è stato? Certo, ci vorrà il tempo, cretina, nel dolore dovevi dire. La leggerezza di pensare come con una specie di magia di rimettere le cose a posto nel cuore, nella testa, in mezzo alle pagine dei libri, con i granelli di polvere e vetri dentro. Io credevo. Sì. Io sono stata abituata a affrontare le cose. I tedeschi hanno detto, e buttano giù tutto, bisogna andare via, poche storie, senza piangere, forza! Allungarono archibusieri. Mia nonna Armanda d'agosto nel 44, quando hanno buttato giù tutti i ponti e le case qui intorno. Io pensavo di essere come la mia nonna. C'ho quella tempra. Solo che a te poi non te l'hanno buttata giù la casa. a me sì come dentro mentre dormivo, cara la mia nonnina. Tutto minato. Il tedesco stecchito per terra, la miccia in mano, morta ammazzato. Chi è stato? Un partigiano? Un tedesco più buono, e ha detto: oh ragazzi, ma che si fa, e dammi la miccia, Dio buono. Un angelo con una fucilata qui sulla fronte. Quando io ho detto io ritorno, mi sembrava di assomigliare a te, non lo so. Infatti il babbo, quando glielo dissi: ma che torni nella casa di via dei Giorgofili, io non lo so se ci avrei il coraggio. Ma coraggio di che? Io non capivo allora, mi sembrava naturale. Come alla nonna gli era venuto naturale quando seppe che dovevano andar via e buttavano giù tutto. Senza piangere, forza! Io torno a casa senza piangere. Forza! Ecco. Forse dovrei dirgli soltanto questo, la verità. Amici dell'associazione, io ho tanto bisogno d'aiuto. Non ce l'ho fatta. Credevo che aiutasse, ma non c'ho la tempra di nessuno. Invece di dimenticare... No, scusate, scusate se uso questa parola. Tanto voi mi avete già capito, no? Perché io non lo so voi. Ma io voglio dimenticare, se mi piacerebbe. No, no, non quelli che... Ma come un taglio. C'è la cicatrice, ma non è che continuamente la riguardi, c'è... E se ti capita di guardarci, te lo ricordi il male. Solo che poi magari sei a passeggio, non ci pensi, te la dimentichi in quel senso. Io ci sono, dice la ferita. Ma ti lascio vivere. Distraiti ogni tanto. Se no, se non ti distrai, poi alla fine sali sul tetto e ti butti di sotto. Distraiti. Io tanto sto qui sul braccio, ti aspetto. Ci si rivede in serata. Grazie. Io ho sbagliato a tornare a Giorgofili. Che devo fare? Domanda. Si alza uno dal fondo. Torni di casa al galluzzo e non rompa coglioni. Che gli rispondi? Neanche se andassi a un ululu con un panfilo con 12 sceicchi. Che c'entrano gli sceicchi? C'entrano! Lei ce l'ha con me perché pensa che io sia la solita rompicoglioni che ci mette del suo. L'ha detto prima. Il trauma, certo, c'è per tutti. Ma poi il carico da 11. Solitudine? Mancanza d'amore, mancanza d'uomini, problemi personali che esulano. Allora, tanto per cominciare, non sono sola, ho un compagno. Sono contenta. Mi ascolta, sì, si parla. Si parla tanto di quello che mi succede dentro, la bomba. Non si fa finta di niente, si parla. Però, dentro a questo mio dolore, che è come un recinto, una gabbia di dispiacere con le ruote, con dentro un leone che ha sempre fame. Sì, te l'hanno dato. Sì, hai fatto qualcosa nella tua vita che nessun giudice ti sa spiegare, e come condanna c'hai questo leone da governare tutti i giorni, perché mangia in continuazione quintali di carne. Amore, amore, ma che ore sono? Mi dispiace, ma io c'ho da andare a dar da mangiare a sta bestia. Ti accompagno. È un uomo sensibile, si parla, non è un ignorante. Vai, vai, ti accompagno. Rimane di fuori. E io ogni tanto ci ho provato a dirglielo. Rodolfo, guarda. Entra. È un leone, ti tieni distante, mi reggi il secchio. Ci sono io. Mentre mangia non ti salta addosso, c'ha la catena. Ti guarda con gli occhi pieni di rosso, ma non ti attacca. E Rodolfo, ti guardo da fuori. Senti, non te ne avrà male, amore mio, io non... I cani Al limite anche le scimmie, ma i leoni. Ma che può fare un compagno? Un uomo o una donna più che accompagnarti tutti i giorni al recinto? Fai il giro, gli levi la merda, gli butti la carne. Rodolfo ti guarda e pensa: che donna coraggiosa ho incontrato. Io gli direi: condannatemi all'ergastolo, la ghigliottina. Ma questa bestia proprio è il massimo. Fine. Il carico da 11. La memoria di quella notte mi aumenta a me. Passano gli anni, diminuisce, si scolora. No, no, aumenta. La presenza aumenta. La presenza è qui come essere a ieri sera, stasera, tutte le sere. Poi una è pazza e in questo ci mette del suo forse. Ma io più che me ne scordo le rare volte e più che ci sto male dopo, ma senti che fregatura. Guarda che cielo bello. Un bel fresco, un profumo, con un gruppo di amici. Rodolfo, sto bene. Sì, sì, avevo un problema la settimana scorsa, ma è tutto passato bene. Che si fa per cena? Il cognato di Rodolfo. Siamo a un ululu. Non c'è bisogno di essere sempre qui dentro a giorgofili. Ma che si fa per cena? E basta un capello appoggiato sul davanzale, il sorriso del cognato di Rodolfo che aspetta. Che c'è? Perché ti vede strana, perché ha capito che stai pensando a quello. Anche il cognato di Rodolfo, che non è che sia al massimo della sensibilità, anche lui ha capito. Ma un ristorante, se c'è, balbetti. Rodolfo si volta per prendere qualcosa in valigia. Anche il cognato, la sorella, si voltano tutti, come se fosse la cosa più importante del mondo girarsi dall'altra parte. E te c'hai un coltello di quello dei macellai che è entrato una frazione di secondo dentro ed uscito dal petto. Zuc, zuc. Le persone, anche quelle più dure di comprendonio, capiscono che si fa per cena. In una frazione di secondo hai oltrepassato l'oceano. Sei andata indietro nel tempo. La faccia che ride di uno di quelli che hanno messo la bomba a Galciana, vicino Prato. Seduto al tavolino, mentre fuma una sigaretta, dà un'occhiata all'orologio e pensa: tra poco si parte. Si fa quello che si deve fare e poi si torna a casa in Sicilia. Che gli porta la mia moglie? Niente. La porto domani in pizzeria. Una bella boccata di fumo. Se mi gira, non vado. Sto a casa. Non mi dispiace, gli dico che ho avuto da fare una chiamata improvvisa. Ma poi alla fine, davanti al Signore, se c'è, ognuno porterà il suo pacchetto. Arrivando dalla sua stradina per il deserto, milioni di viottoli che arrivano nello stesso punto, il dolore. Lei, signora, che c'ha? Io questo. Bene. Qualcuno più giovane mi verrà incontro, perché a Dio di persona non lo fanno sollevare il dolore. Alza il pacchetto, pesa. Lo pesate? Sì, bene, 2,5 kg, segna. Poi lo chiappa e lo tira su. Su, alto nel cielo, che ci vuole mezz'ora per vederlo cascare. In cima a un monte, una discarica più alta dell'Everest. tutta fatta dei dispiaceri di tutti, di tutte le vite, di tutti i tempi. Quel sacchetto è di quella che ha patito perché la sorella non gli ha parlato per una vita. Quello perché ha rovinato la vita alla moglie. Quello perché gli Etruschi, quando fu, gli hanno scannato un fratello. Quell'altro i dispiaceri di Dante, del Savonarola. E poi guarda il tuo. Ti sembra di distinguerlo, lo riconosci. Un pacchettino su un cumuletto in alto a destra. Il dolore per la strage di via dei Giorgofili. E ti viene da commuoverti. Ma guarda te, dovrei fare i salti di gioia invece. Ma signora, ma che ci sei raffezionata? No. No, è che io, quella roba terribile lì, io l'ho tenuta così vicina, stretta per tanto tempo, che adesso mi viene un dubbio. Ma sarò io o un'altra persona quella che ora va via senza pacchetto? Quello non capisce. E allora glielo rispieghi. Veda, tanto tempo fa c'ero io, prima che scoppiasse la bomba. Una sera è come se me ne fossi andata. Bene, in quel momento ne è arrivata un'altra di me. Ma io sono quella, dove vai? Aspetta. No, dice questa nuova lei te. Da oggi, che sarebbe il 27 maggio del 93, te sei questa. Va bene. Fai fatica a capire, perché insomma, proviamo. E piano piano cominci a convivere con quest'altra persona, che sei sempre te, però un pochino staccata, sempre un mezzo metro distante. Non è mica facile. Ti sta parallela. Ti ci abitui. Ti pare di abituarti, ci parli. Allora? Niente. Ora lei mi dice che c'è anche quest'altra. Un'altra me senza il dolore, senza il ricordo. Quest'altra è libera. No, mi fa piacere. Ma scusi, ma quante ce n'è di me? Quella che ero. Prima della bomba. La prima. Quella che c'ero più affezionata, perché era la più bella, simpatica, contenta di tutto. E poi quell'altra, dalla bomba in poi. Com'è? È una brava figliola. Triste perché ha visto e sentito roba triste. Qualche volta ride, è allegra qualche volta, ma contenta mai. Allora, quella di prima non ha fatto niente, ma questa si è fatta un culo come una capanna. Il patire. Ha avuto dei problemi fisici grazie alla bomba e superati grazie a Dio, e dei problemi di tipo diverso. Però insomma, è una persona. Ma sono in qualche posto per ritrovarle tutte insieme. A me bastava essere una. Una che cambiava poco a poco, magari uno piano piano si staccava, ma senza che te ne accorgevi, perché ti sentivi uno, tre. Lei quanti è? Io uno. Lo vede? Comunque, questa nuova almeno si è liberata. L'angoscia, il dolore, i ricordi brutti, le voci. Questa nuova te è perfetta. Facciamo una prova. Rodolfo? Rodolfo, mi riconosci? Rodolfo ti guarda e lo capisci che pensa. Ma sei meno pallosa, ma io sono molto più contento, ma parecchio. Passi davanti al recinto dove ci tenevi quell'animale, quello che dovevi governare, vuoto. Rodolfo viene dentro anche lui. Te provi la compassione e lui non ha più paura. Ora andiamo a casa. Senti, io voglio passare davanti alla torre dove hanno messo la macchina, davanti alla lapide di marmo, e vedere che si prova a guardarla per la prima volta, senza dolore. Voglio sentire. Allora, dice lui, ti guarda, Che effetto ti fa? Nulla. Sei contenta? Per niente. Andiamo a casina, via. Giri la testa e ti metti a ridere. Così. Una bella risata argentina a caso rimbomba per tutta la strada. Uno 10 metri più avanti si gira e poi il giorno dopo. Ma guarda, ho visto la Giulia ieri sera, sta bene. È come... No, hai visto che lei invece è sempre, no? Sembra... E invece ora è un'altra persona. Ma chi ha cambiato fidanzato? No, no, è sempre il solito. Ma io non lo so. Rifiorita, un'altra persona. Che ore sono? Faccio tardi. Andiamo, allora via del... Io sto zitta. Voto se c'è da votare. Una riunione, l'associazione, io voto. Buongiorno, buonasera, ci si vede alla commemorazione, stop, chiuso. Il gas, chiuso tutto. Vai, vai. Tutto bene, sono andata. Ho detto che andavo, ho ascoltato. Per la storia del 41 bis è più complicato. Si è parlato anche della torta a Provenzano. Gli ha voluto fare la torta, il compleanno, porino. Ma tanto si sa, non c'è niente da fare. Ci vorrebbe una scarica di legnate, lo so, ma non si può fare. Ma guarda te, non si è mossa, mi fissa. 2 ore ritorno c'è. Ma che cavolo, io ti riguardo. Chiamano il manicomio, ora lo chiamano. E allora vai. Suoni a qualcuno, sali all'ultimo piano e ti levi la voglia. Porti una pila, la vedi, si chiude. Ma io prima non ero così. Prima della bomba ero diversa. Mica stavo lì a tormentarmi prima di dormire come ora. Ero una ragazza normale. Fantasticavo il futuro, le cazzate che si fantastica. Immaginavo le cose che mi sarebbero successe e vedevo piano piano, mentre il futuro andava avanti, che andava avanti anch'io di fianco. Alzati, dai. Stira. Fai le faccende, tanto lo sai. Fino alle 2 non si dorme, ti ci intestardisci. Lo sai, deve passare il momento. I momenti. Da quando partono con le macchine, la Fiat Uno, il fiorino. Ci hanno ancora da arrivare, imboccare la strada, lasciare la macchina, ripartire. C'è tempo. È inutile provare a dormire, rigirarsi nel letto, nei pensieri stupidi. Dai, lavora, reagisci. Tanto lo sai dopo. Dopo, quando è tutto fatto, mentre loro corrono lontani sull'autostrada e si affannano con l'autoradio a sentire se c'è la notizia, dopo, dopo. Ma c'è tempo ancora. Lavati il viso. La mia faccia. Sembro giovane ancora. Giovane. La gioventù. Sembra una parola che rimbalza tutte le volte che la dici. Batte nel muro e ti torna contro. Lavati il viso e sapone tutte le sere. gioventù. Mi piacerebbe domandarglielo al signor Rina, al signor Provenzano, quando mi capiterà di incontrarli nell'aldilà. Perché da vivi è inutile domandarglielo dopo. Dopo, quando dopo 150 anni di secoli di sbollimento siamo anime ectoplasmatiche, in un tutto ricomposto da un Dio. Lo sa, anima del signor Rina, quanti anni ci avevo quando avete messo la bomba a Firenze e lei e i suoi amici in via dei Giorgofili, dove abitavo io? E lui? Ma come faccio a ricordarmi quanti anni ci aveva lei? Ha ragione, glielo dico io. 27 quasi. Me l'avete messa lì la bomba, tra i 26 e i 27. Come le tacchettine quando crescevo a casa della mia nonna sul muro. 26 e 10 mesi, segniamolo. Bomba! A 26 e 10 mesi uno è giovane. Ma insomma, lei è sempre la gioventù. La sente questa parola, provi a ridirla. No, dice lui. E allora gliela ridici più forte. Gioventù! Rimbalza indietro, ma si può dire? Sì, sì, sì, sì, dice lui, sì. Io la dico. Sembra un moccolo gigantesco, ma la dico, gioventù, ma si può dire? Sì, si può dire, per carità, signora, ci mancherebbe. E lo vedi, no? Che comincia la frontina a bagnarlisi all'attaccatura dei capelli fitti. Ecco, mi ci guarda un po' se per caso li fosse rimasta. No. Ma ci guardi, per piacere! Lui si fruga le tasche. Non c'ho più niente, signora. Guardi meglio. No, anche nella giacca niente. Qui levano tutto, il dolore, ma levano anche le colpe. Frughi? Nelle tasche, frughi bene, Dio! Signora, io frugo. A un certo punto gli viene la faccia rossa, si blocca. Tira fuori una manina che trema dalla tasca dei pantaloni. Oh, questa! Ecco, lo vedi che ce l'avevi? Signore Dio, ma che troiaia ha fatto, me lo spieghi? Eccola qui. La ringrazio, arrivederci. Ce l'hai sul palmo della mano. Una pallina di caucciù colorata come un piccolo mondo. Questa è mia. L'ho rivoluta. Ho dato il dolore, ho chiesto di riavere la gioventù. Non serve più a nulla, non mi importa. L'anima di Rina è rimasta lì, ti guarda. Lo sguardo rabbonito da secoli di pentimento ectoplasmico, come per dire, ma mi dispiace, signora, io non credevo, mi dispiace. Ma che ci facevi? Cominci a urlare. Che ci facevi? Tutte le anime si voltano a guardarti. Oh, ma senti quella come bercia. Io spero che non ci sia il paradiso. Questo l'ho anche detto al prete, Don Marco. Che sia tutta una presa di culo, io me lo auguro. Perché se esiste questo ectoplasmico, io sono sicura, noi ci si rimane parecchio male. Si sta male di qua perché fanno poco, ma ci fregano pure di là. Chi siete voi? Ma quelli della bomba, le vittime di via dei Giorgofili, ci siamo radunati, siamo venuti tutti insieme. Sì, sì, sì, sì, sì. No, ho capito. Sì, venite, venite. Ma glielo vedi dalla faccia. Glielo leggi. Come quando uno, no, mettiti in vita a cena e poi si pente. Speriamo telefoni dica che non può, è noiosa. Poi qualcuno gli domanda della bomba e lei attacca. Rovina la serata. E invece te arrivi. Perché ti hanno invitata. E arrivi anche precisa, puntuale. E quella ti apre la porta. Oh, carissima, meno male sei venuta, vieni, vieni. O vedrete come ci si ritrovano gli altri. No, me lo saprete ridire. L'altro giorno, sul calendario del computer. Già, Ganzo. Ci è voluto un momento per ritornare indietro. Scorrevano i mesi, gli anni. E mentre passavano io pensavo, passa anche la mia vita. Fino a quel punto, stop. Non ho avuto il coraggio di andare dopo. Mi sono fermata al 27 maggio del 1993. Oltre non ho avuto mica il coraggio di andarci. Al 26. Il 25. Il 12 di febbraio, di luglio, di 5 anni prima, no? Tanto per dire una data a caso. Ma che fine hanno fatto quei disgraziati di giorni? Si potrebbe riaverli anche quelli. Ma quelli non si ridanno alle persone normali. Figuriamoci a noi, siamo vittime. Come si fa? La pasticca l'ho presa. Mezzanotte. Arrivano, sono già arrivati. La Fiat Uno e il Fiorino. Io mi sono appena fatta la doccia e ce l'ho con il mondo. Perché quell'imbecille dell'idraulico ancora non ha risolto il problema. Prima continua a venire su il puzzo dal buco della doccia, poi l'acqua. Buttaci l'acido, fai quello che cavolo ti pare, aggiusta, no, il bagno rifatto. Domattina, venerdì, c'è a bottega, lo chiamo. Loro hanno appena lasciato la macchina. Loro guardano. Firenze li scorre davanti. Si fermeranno da qualche parte per sentire la botta forte, per poi ripartire le serpi. Dai finestrini i bar, i ristoranti. Una donna e un uomo fermi con un gelato in mano. Gelati, bibite, telefonate, baci, televisioni. Comincia a essere tardi. Chi dorme, chi passeggia, chi studia, chi si è fatta la doccia e pensa che è ora di andare a letto perché domani è, Madonna, domani è dura. L'hai chiusa la finestra? Sì, sì, l'ho chiusa, non si sa mai, un pipistrello. Se il dubbio ti veniva prima, tu potevi alzarti e vederli, magari distrattamente, dalla finestra del salotto. Due uomini che uscivano da un Fiorino, risalivano su un'altra macchina che aspettava e sparivano in fondo alla strada. Chissà come sarebbe stato vederli. Rimango a letto. Il gas è a posto, le finestre chiuse. Passa una ragazza per via dei Giorgofili, ride. È fine maggio, la gente esce la sera. E io che fo la bischera. Bisogna che mi organizzi una cena qui a casa. Che gli faccio? Le farfalle. Ma sì, le farfalle. Erano 1:04. Prima l'incazzatura con l'idraulico, poi le farfalle. 1:04. Ce l'hanno detto dopo? Io pensavo fosse prima, 00:30 al massimo. Ero lì, le farfalle, i rigatoni. Mi vergogno a dirlo. E infatti io questa l'ho sempre tenuta per me. Erano 1:04. Si vede che a forza di pensare io non mi sono accorta la posizione che avevo nel letto. Una settimana dopo, a casa della mia mamma, nel letto, mi sono girata, provavo ad addormentarmi. Eccola. Era questa la posizione che avevo. 1:04. Come i calchi di Pompei. I calchi di Pompei. Di quelli sciagurati coperti di lava nel sonno, te come loro. E allora tutte le notti, prima di addormentarti, dici: non mi ci devo mettere, attenta quando ti rigiri, la fase REM, la fase sona sega, io ci si rigira nel letto mentre si dorme, mentre si sogna, la paura che apro gli occhi e mi ritrovo in quella posizione, 1:04. Avevo un armadio a fianco che mi è venuto addosso e mi ha salvato la vita. Tutto buio. Ho cominciato a urlare il gas. Pensavo con tutta la forza che avevo, il gas, che Cretina, che è successo? Il gas. Te l'avevo detto di alzarti e controllare il gas, il gas. L'armadio venendo addosso fa una casina, una capanna, e riesco a passare mentre ripeto il gas, meccanicamente le labbra vanno da sole. Ti dispiaceva perché non avresti organizzato la cena? Ora è crollata la casa, mi butteranno in galera. La cena. Volevo invitare... Come si chiama? Il cugino della Betty, Rodolfo. Come riesco a essere cretina io? E mi sono vista la vita rovinata, il futuro. Era questa la sorpresa? Rovinato. La tisana. E la mia mano sulla maniglia del gas, che invece di girare in un verso gira in contrario. Scappo. Penso a quelli di sopra e a quelli di sotto. Che saranno morti a quest'ora perché io un tonfo in quel modo. Non lo so come ho fatto arrivare sul tetto, perché era buio nero. E davanti a me non c'era il buco della porta, che ci doveva essere. Non c'era niente. Non capivo più niente. Sotto i miei piedi io pensavo ci fossero le spine. Il silenzio. Quando dici il silenzio sott'acqua 20.000 chilometri sotto la superficie del mare, quel silenzio lì che io mi immagino sia da quelle parti. Sono sul tetto. Mi butto di sotto perché è colpa mia. Io sono la causa di questo macello e mi ammazzo. La cena, pensi ancora alla cena, ma ammazzo, la pago. Sul tetto di una casa che non c'era più, senza vestiti, nuda, sentivo freddo, tremavo. Allora ho capito, sono nuda su un tetto. Io. Il buio e la polvere. Che è successo? Ero a letto io. Signor giudice, io volevo ammazzarmi, perché credevo di essere stata io. Eppure, le giuro, mi sembrava di averla girata la manopola del gas. Ero a letto, la posizione fetale, come la chiamano? Ti giri? Ti rigiri tra le lenzuola, il caldo, è maggio, è entrata dentro nel buio. Si vedeva una striscia di luce rossiccia, un colpo di vento fortissimo che sembrava volesse strappare la pelle. Più passa il tempo e più mi resta difficile spiegarlo a parole. Ci provo 100 volte, me le ripeto tra me, le parole, cercale. Ci sono da qualche parte. Il buio e la polvere. Il pensiero di buttarmi di sotto in quel buio. Quanto sarà alto? 6 metri? 10 metri? Che ore sono? Le 10? Il gas? Smettila, vai a dormire. Il gas è a posto. Io sono a posto. Tutto è a posto. Dovevo andarmene anch'io, altro che ritornare. Come se andarsene bastasse per dimenticare quello che un giorno qualcuno a 1000 chilometri di distanza ha deciso di farmi. A me, a te, a lei, a tutti quelli che erano qui quella notte, a tutti quelli che volevano bene, a quelli che erano qui quella notte. A tanti, siamo tanti. Dovrei rinascere di un paese dell'Africa, di capanne, miseria, siccità, di tutto. Se non è possibile, va bene anche lì. Di un posto dove non esiste la mafia, per sentire che si prova. È uguale l'aria, la luce, il sole, la pioggia. Sì, ti dico che è uguale. Però l'hai provato a svegliarti e sapere che certa gente è lontana, ma no a 2 chilometri, a 100, a 500 o a 1000 chilometri. È proprio in un altro mondo, in un altro tempo. Vabbè, dovevo dirlo stasera invece di stare zitta. Io credo che noi non avremo mai pace finché la mafia e tutto il sistema che la sostiene non sarà distrutta. Ma siccome in questo paese non sarà mai possibile, noi la pace non si troverà mai, né di qua, né di là, né di sotto, né di sopra. Era una frase fatta bene. Efficace, forte. Ti alzavi, la dicevi, facevi la tua bella figura. Invece ho perso 2 ore tra andare e tornare. È che le parole per fare una figura decente non mi vengono mai. Vabbè, la prossima volta. Andiamo a letto. No. No, voglio andare di là sul tetto. Ora di notte, sì. Voglio vedere, tanto non si chiude occhio. Mi è presa male, malissimo. Nessuno. Dormono, sono a giro, guardano la televisione. È una sera di maggio del 2010. C'è il cielo, qualche stella, le luci di Firenze, il brusio della gente in Piazza della Signoria. E una cretina che, siccome non riusciva ad addormentarsi, è infilata nelle scale del palazzo accanto, è salita fino in cima alle scale, guarda. Ma lo vedi? Una scala, un paio di barattoli di vernice, così messi per caso, in una certa maniera. Ma sono 2 anni e mezzo che io ci vedo qui una che mi guarda nelle finestre, dentro, mi fissa, tutto quello che faccio, mi fissa, mi studia. Non c'è nessuno su questo tetto. Solo io, come quella notte di maggio. Fa effetto vedersi. La propria casa senza di noi a muoversi dentro. Tante finestre spente, qualcuna illuminata, qualcuna in camera da letto, qualcun altro è rimasto in salotto, la tele accesa. Gli studenti che ascoltano la musica, che studiano. La torre. Anche se non riesce a vederli bene, le immagini. Si dorme, si studia, si fa la doccia, si fa l'amore o si dorme. È la vita, dice, sì. Anche a voler dire il contrario, per forza. È quella roba lì. Casa mia si vede proprio bene. Vuota, io sono qui. Mi sembra di vedermi a girare per quelle stanze. È un effetto strano. Mi guardo dove non sono. La mia vita è lì dentro. La nostra vita. Di tutti quelli che hanno abitato, vissuto e sono morti qui. Sono per forza dentro a questo spicchio di strade, tra questi muri, queste 2 strade. Rientriamo, dai. Ma non c'è nessuno, hai visto? Una scala messa male, 2 barattoli di vernice, rientriamo. Sì. Rientriamo. Tanto lo so. Basterà voltarmi verso la finestra. So chiudere gli occhi appena appena per vederti di nuovo. Mi guardi. La faccia stralunata. La stessa espressione che avevo io. Quella notte.